90. Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e undici minuti, inizia l'ultima puntata di Focus Economia della settimana, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Allora, come sempre la puntata prevede anche la poco invidiabile classifica di Focus Economia, gli altri temi, dicevo, parleremo anche di Cirio. Già ieri abbiamo fatto un riferimento, ma oggi ne parleremo, anche perché la sentenza è definitiva per il banchiere Cesare Geronzi, 4 anni. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a 4 anni di reclusione, 3 anni sono coperti da indulto, la sentenza definitiva. E invece un nuovo processo per l'ex patron della Cirio, Sergio Cragnotti, perché la Cassazione ha annullato con rinvio la condanna per il crack della società in relazione al capo d'accusa più grave, la vicenda Brombril, per la quale aveva avuto una pena da 7 anni di reclusione. È diventati 8 anni e 8 mesi per gli altri reati contestati. Plaudono alla sentenza i risparmiatori, quelli che avevano rifiutato la strada delle transazioni. L'avvocato che li rappresenta, Claudio Coratella, ha detto: è una sentenza molto equilibrata, è la rivincita morale e materiale per centinaia di risparmiatori traditi, che hanno perso tutto nel crack Cirio e che oggi ricevono giustizia dello Stato, perché ricorderete, ma ne parleremo più avanti, che il crack Cirio non fu solo il crack di un colosso alimentare italiano che aveva posizioni totalmente non dico di dominio, ma molto forti in alcuni settori dell'agroalimentare. Fu anche la fregatura per molti risparmiatori, perché prima che si arrivasse al crack furono emesse delle obbligazioni Cirio, e tra l'altro quello che il Sole 24 Ore ricordò e notò, stiamo parlando del 1 agosto del 2003, che se uno va a vedere i debiti verso le banche da parte di Cragnotti e i debiti verso i risparmiatori, che cosa succede? Succede che tra il 2001 e il 2002 si riducono moltissimo le esposizioni verso le banche. Cioè dal 99 erano 873 milioni, diventano 335 nell'arco di 2 anni, e contemporaneamente le obbligazioni, il prestito obbligazionario collocato anche appunto ai risparmiatori retail, aumenta da 53 milioni a 850 milioni. Come dire, le banche sono rientrate, alcune delle banche più esposte nei confronti di Cirio, nel frattempo sul mercato si sono collocate le obbligazioni, un atteggiamento obiettivamente discutibile, perché non è che per rientrare da un prestito tu, diciamo, giri questo prestito e questo debito che va a Cragnotti ai piccoli risparmiatori. Dicevo, di questo parleremo anche del fatto, delle perplessità molto forti che continuano a circolare a tutti i livelli in Italia su quello che capiterà dopo la decisione della Banca Centrale Europea, di cui abbiamo parlato a lungo ieri, dal 1 gennaio, una stretta sui non performing loans e quindi sulle sofferenze bancarie. Oggi anche Confindustria ha parlato di scelta incomprensibile di Francoforte. Il ministro dello sviluppo Carlo Calenda condivide la posizione dell'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi, che dice all'Europa serve l'opposto. L'ABI torna a sottolineare il rischio di effetti negativi sull'erogazione di finanziamenti alle piccole e medie imprese, e anche il presidente del Parlamento Europeo Tajani ha chiesto che la riduzione delle sofferenze bancarie avvenga in modo equilibrato. L'abbiamo detto anche ieri, vi torneremo. Le nuove regole, che partiranno dal 1 gennaio e riguarderanno le nuove sofferenze, non quelle accumulate nel passato, prevedono la svalutazione al 100% dei crediti deteriorati dopo 2 anni se non garantiti, e dopo 7 anni anche se assistiti da garanzia, per esempio la casa per il mutuo, e quindi il mutuo per la casa, scusatemi, e la garanzia è la casa. E già ieri abbiamo detto: attenzione, per quanto è lenta la giustizia civile in Italia, per quello che è anche la burocrazia in Italia, delle volte 7 anni non sono un periodo sufficiente per riacquistare una casa e metterla sul mercato dal tuo debitore, nel senso che dal tuo creditore, in questo caso, scusate, a cui hai erogato il mutuo. E non si capisce perché trattare in un modo così netto e duro solo 7 anni di tempo, quando il prestito è garantito obiettivamente da un immobile. Tra l'altro, su questo, secondo i primi conteggi per le banche italiane, i nuovi obblighi avranno un peso di circa 3 miliardi all'anno in più a partire dal 2019. Modesto l'impatto il primo anno, solo per 100 milioni di euro, ma il problema è quando andrà a regime questa cosa. E il rischio che già ieri evidenziavamo è appunto di un'ulteriore stretta o di un ritorno alla stretta sull'erogazione di credito. Ne parleremo, parleremo anche di questo, dicevo. La borsa oggi come va? Meno 0,80% Milano, Unipol più 1,50, Mediobanca più 1, Leonardo più 0,90, Mediaset più 0,14, il fronte opposto Biper meno 3,40, UBI meno 3, Banco BPM meno 2,5, Italgas meno 2, Saipem meno 1,80, Eni meno 1,50 come A2A, e Ferrari l'1,30 lo perde Mediolanum, Moncler ed Enel, l'1,20 Fiat Chrysler, Boots Unicem, l'1% lo perde Brembo e Case New Holland, ma anche Snam e Tenaris. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24 e la diretta attraverso Facebook. Le notizie di carattere internazionale, come sempre in apertura, partiamo dagli Stati Uniti, dove oggi è arrivato un dato inatteso sulla disoccupazione che si attesta al 4,2%, ha perso 33.000 posti di lavoro a settembre l'economia americana, è la prima volta che capita dal 2010 di avere un calo così forte, le previsioni erano opposte, di un aumento di posti di lavoro di circa 90.000, quindi un dato assolutamente a sorpresa. Nel frattempo, e parleremo anche di questo, dimenticavo l'altro tema che toccheremo, le conseguenze economiche, ieri l'abbiamo annunciato, di quanto sta capitando in Catalogna. Perché? Perché se da un lato la Corte Costituzionale Spagnola ha sospeso la sessione del Parlamento catalano prevista per lunedì, durante la quale il presidente Puigdemont voleva annunciare la dichiarazione di indipendenza, tutto viene spostato, se abbiamo ben capito, a martedì. Oggi a Madrid gli interrogatori del capo dei Mossos e dei presidenti delle due grandi organizzazioni della società civile catalana indagati per sedizione. Ma dicevo, c'è un fronte anche economico, perché il governo spagnolo ha approvato questa mattina un decreto che agevola il trasferimento delle sedi sociali delle imprese e in particolare lo spostamento dalla Catalogna ad altre parti della Spagna. C'è già chi si è mosso, faccio notare che anche Banca Mediolanum, attraverso la sua controllata Banco Mediolanum, ha deciso già di trasferire la propria sede legale da Barcellona a Valencia. Ha operato questa scelta in ragione di logiche economiche e commerciali e al fine di rimanere nell'ambito di supervisione della BCE. Questo non comporta lo spostamento delle sedi operative, ma è un segnale. Il Fondo Monetario Internazionale oggi dice: attenzione, ci potrebbero essere rischi per l'economia spagnola se la crisi politica persisterà. E ancora Trapero e Sanchez sono stati indagati per sedizione e il capo, appunto Trapero, dei Mossos rischia fino a 15 anni. Ma sempre sul fronte economico, oggi anche il colosso dell'energia Gas Natural ha deciso di trasferire da Barcellona a Madrid la propria sede sociale prima di una possibile dichiarazione di indipendenza della Catalogna. E ancora c'è un insieme di società che vanno a trasferirsi nel resto della Spagna. Ieri il banco Sabadell, che ha deciso di spostare da Alicante la sede sociale, e poi un grosso gruppo vitivinicolo produce lo spumante Cava ha annunciato che proporrà al CDA di spostare la sede fuori dalla Catalogna. Insomma, bisogna stare molto attenti perché su questo vi sono parecchi rischi, e ieri abbiamo fatto notare palesemente che, adesso vedremo come andrà a finire questa vicenda, ma è difficile fare un'indipendenza se non hai una valuta e se la tua banca centrale che garantisce questa valuta non viene riconosciuta dalla Banca Centrale Europea. Cioè, in che condizioni ti poni? Sul modello svizzero, sul modello, diciamo, extra Unione Europea? Ma mi rendo conto che dal punto di vista delle priorità non sia questa, che probabilmente è la parte di atteggiamento politico, la spinta per l'autonomia, però i conti vanno fatti tutti. Oh, sono arrivate invece le scuse, devo dire un po' tardive, un po' in ritardo, del numero uno di Ryanair. O'Leary si è scusato con i piloti, ha promesso migliori contratti, ha scritto una lettera ai dipendenti dicendo che la cancellazione è stata di molti voli è stato un errore da parte dei manager di Ryanair. La lettera ai piloti offre aumenti di stipendi, bonus e migliori condizioni di volo e quindi migliori condizioni di lavoro e quindi anche di volo e di carriera. Questo però, da quello che abbiamo capito, anche per evitare una fuga in massa dalla compagnia aerea, ha promesso aumenti di retribuzione fino a 10.000 euro e bonus fedeltà fino a 12.000 euro. Nel frattempo Alitalia invece ha inviato oggi ai sindacati una lettera per una proroga della cassa integrazione straordinaria al 30 aprile 2018, e quindi l'obiettivo è per contenere i costi e garantire la sostenibilità economica. E invece, a proposito di lettere e cifre, la cordata M Invest Co, che ha rilevato l'Ilva di Taranto, ha indicato oggi, in vista dell'incontro con i sindacati lunedì prossimo al Ministero dello Sviluppo Economico, quelle che saranno esuberi e invece conferme. Allora, sono 9.930 dipendenti che la nuova cordata intende impiegare per il rilancio dell'Ilva. E questo significa che gli esuberi saranno 4.000, dura la presa di posizione del sindacato. E da lunedì parte comunque la trattativa al Ministero dello Sviluppo, una trattativa appunto con i sindacati. No, guardate, dico chi mi scrive al 349-238-6666, non è una cosa marginale, chi se ne frega della BCE. Se tu vuoi, adesso, immaginando che la Catalogna possa ottenere l'autonomia, immaginando, perché lì il tema è veramente politico e quasi anche di ordine pubblico, ma anche immaginando questo, tu non puoi avere un'autonomia. Allora, per essere autonomo devi stampare valuta oppure aderire all'euro. Delle due l'una. Allora, o stai completamente fuori dalla zona euro, stampi la tua valuta, vediamo che rapporto di cambio si crea con l'euro, ma hai tutti i problemi che sta avendo la Gran Bretagna nel gestire la Brexit, perché a quel punto esci dall'Europa, non sei più sede europea di qualunque soggetto, e quindi rischi di avere in piccolo tutto quello che sta avvenendo in Gran Bretagna, dove le grandi i grandi colossi, ma non solo, spostano la sede in ambito europeo, perché non è più legislazione, non sarà più legislazione europea. Quindi hai da un lato la possibilità di avere la tua valuta, però sei fuori dall'Europa. Se no, se vuoi essere dentro l'Europa, che valuta adotti? L'euro deve avere un riconoscimento dalla Banca Centrale Europea, che va a vigilare sulle banche più importanti dell'area euro. Lo sappiamo, l'abbiamo detto molte volte anche in Italia. E la BCE non mi sembra assolutamente disponibile a riconoscere in questo caso la Catalogna. Cioè, non sono dettagli, perché uno dice, fa presto a dire metto una bandiera e dichiaro l'indipendenza. Non è esattamente così. Va bene, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Partiamo subito con la classifica. Poco invidiabile, non è una fatica farlo, ma purtroppo non mancano mai i temi. Allora, classifica sia. La classifica della settimana. Domanda, domandina, partiamo dal quinto posto. Quanto ci vuole, secondo voi, a spostare una piccola frana che però blocca un intero collegamento e blocca un'intera autostrada? Perché stiamo parlando della carreggiata ovest della Messina-Catania. Non è proprio un dettaglio, per chi conosce la Sicilia. La Messina-Catania è un'autostrada abbastanza importante, anche perché a Catania, se non ricordo male, c'è l'aeroporto, uno dei due aeroporti principali, l'altro è a Palermo, e quindi la Messina-Catania anche per il turismo, tutto quello che volete. Quanto ci vuole a spostare una frana? Ma non stiamo parlando di una voragine, non è un film horror, no. Era il 5 ottobre 2015 quando la collina sull'argine dell'autostrada venne giù invadendo la corsia della 18. Ripeto, io ho avuto anche modo di vederla, non è una cosa drammatica. Il problema è che sono passati 2 anni secchi e puliti. I detriti franosi occupano ancora la carreggiata dell'autostrada. La procura ha dissequestrato l'area per permettere i lavori. Perché? Cosa era successo? A un anno dalla frana, lo scorso novembre, quindi 2016, la procura di Messina ha notificato 10 avvisi di garanzia per disastro ambientale e falso ideologico e messo sotto sequestro i complessi sopra il costone, 200 abitazioni in tutto. Il terreno era pericoloso e il rischio frana era stato aggravato dalla costruzione di alcuni complessi, immaginiamo assolutamente legali e legittimi, tra gli anni 70 e 80, figurarsi. Allora, il prossimo 18 ottobre verrà presentato il progetto esecutivo, così ha dichiarato Salvatore Pirrone, direttore generale del Consorzio Autostrade Siciliane. Un intervento però delicato non è ancora iniziato, perché prima deve essere realizzata una galleria all'interno della frana, dopo verrà rimossa e messa in sicurezza il costone. Nel frattempo però si potrà passare all'interno della galleria, un'operazione da realizzare però su un terreno instabile, per la quale verranno realizzati dei pali a monte e a valle, una rete di protezione per limitare i rischi. Totale dei costi 10 milioni di euro, 6 milioni del CAS, appunto Consorzio per le Autostrade Siciliane, 4 milioni della Protezione Civile, soldi già impegnati. Però perché ne stiamo ancora parlando? Perché ci è voluto solo un anno, cioè, o meglio più di un anno, per definire di chi fosse la competenza. Perché un pezzo di costone era del comune di Letoianni, ma ormai franato sul manto autostradale, quindi la frana è andata in crisi di identità, perché non sapeva più se era una frana pertinente al comune di Letoianni oppure, essendo cascata senza saperlo e senza volerlo nell'autostrada, era di pertinenza delle autostrade. Un anno per decidere. Alla fine hanno deciso che i lavori dovrà farli il Consorzio per le Autostrade Siciliane. Non si poteva, io non so, in una riunione lo decidi, no. Nel frattempo però interviene anche la DIA. Lo scorso 12 aprile gli agenti portano a luce un sistema di incentivi progettuali che andavano a ingrossare gli stipendi degli impiegati del Consorzio Autostrade a fronte di lavori di cui non esisteva traccia. Neanche la frana se ne racconta. Quindi vengono sospesi 12 dipendenti, tra cui il progettista della messa in sicurezza della frana, Alfonso Schepisi. Ad aprile quindi il CAS, il Consorzio per le Autostrade Siciliane, ha un problema, è il famoso problema del CAS, nel senso che si ritrova senza progettista e non può proseguire. Dopo un mese arriva la Protezione Civile e dice: vabbè, risolvo io, ti do il denaro in prestito, ti presto anche un direttore dei lavori. E quindi dopo aver ricevuto questo prestito, 5 mesi dopo, arriva l'annuncio della presentazione del progetto esecutivo. Allora, io capisco che è un problema del CAS, del Consorzio per le Autostrade Siciliane. Vorrei sapere adesso quanto ci vorrà dal progetto esecutivo alla realizzazione dei lavori. Ripeto, non stiamo parlando per fortuna di un disastro geologico. Chiunque sia passato per autostrada Catania-Messina vede cos'è, sì, certo. Ma 2 anni per decidere... Andiamo al quarto posto. Io non so perché alcune volte mi finisco in classifica più notizie di una regione che altra. Andiamo alla ARS, che è l'Assemblea Regionale Siciliana. Qui però parliamo di un soggetto specifico, Giulia Adamo, perché la sezione giurisdizionale d'appello della Corte dei Conti ha confermato la sentenza di primo grado, condannando Giulia Adamo a risarcire 65.000 euro, in questo caso quindi l'Assemblea regionale siciliana è parte lesa, all'Assemblea regionale siciliana. Condanna definitiva per le spese compiute nella scorsa legislatura in qualità di capogruppo del PDL Sicilia, dove l'Adamo approda nel novembre del 2009 e che si aggiunge alla condanna in primo grado da 175.000 euro, perché la condanna in primo grado era riferita alle spese compiute quando l'ex deputata marsalese era invece capogruppo dell'UDC. Allora, intanto, due notizie buone per l'Adamo. Le è andata bene, nel senso che in appello le hanno levato 100.000 euro su 175.000 euro. La cosa incredibile è che sembra che, se tu le, diciamo, in matematica, se tu levi 100.000 euro a 175.000 euro, ti restano da risarcire 75.000 euro. Ebbene, per un errore di trascrizione, la cifra contestata alla fine non è più 75.000 ma 65.000 euro. Beh, insomma, ricevono un regalo di 10.000 euro per un errore di trascrizione, vorremmo che capitasse anche a noi quando riceviamo la busta paga. Infatti, il giudice di primo grado, probabilmente per un errore materiale, ha contestato appunto 65.000 euro e non 75.881 euro, una somma non più appellata. Vabbè. Gli sconti comunque li ha avuti, al di là di questo errore di trascrizione, ha avuto 100.000 euro di sconti rispetto alla prima condanna. In particolare, comunque, i soldi che deve restituire, questi 65.000 euro, riguardano erogazioni a singoli deputati, in particolare trasferimenti di denaro che l'Adamo ha, in qualità di capogruppo, ha destinato ai colleghi parlamentari del Parlamentino siciliano. Spese non regolari, la Corte dei Conti parla di una erogazione a pioggia che di fatto garantiva ai deputati un'indennità aggiuntiva e non prevista dalle regole dell'Assemblea. E questi sono una parte dei soldi. Poi, e sono già 53.000 euro, cioè dava un'integrazione ai deputati. Poi ci sono i soldi per regali ai ristoranti. Però alcune di queste sono finite in prescrizione. Per esempio, non dovrà restituire i soldi spesi per l'acquisto di una borsa Louis Vuitton da 450 euro, che è noto che ti serve per l'attività politica e parlamentare. Insomma, come fai senza? Deve invece restituire i soldi per boccali d'argento da 1.700 euro acquistato come regalo di nozze per il figlio di un onorevole. Ma io capisco, ma fai bene a fare un bel regalo, ma perché devo pagarlo io? Siamo sempre lì. 7.000 euro spesi alla buvette dell'Assemblea regionale siciliana in maniera irregolare, 7.000 euro la buvette, ma le hanno prescritto, sono andati in prescrizione altri 9.000 euro, perché la cifra era di 16.000 euro. E poi ancora cose minori, anche qui andate in prescrizione alcune altre acquisti di tutti gli acquisti di vino, per esempio deve pagare solo tre bottiglie da sono 300 euro in tutto. Comunque la procura scrive anche una cosa, perché la linea difensiva dell'Adamo è stato si è sempre fatto così, e la procura scrive: non può ritenersi connotato da assenza di colpa grave in quanto fondato su una prassi diffusa prima del 2012, come pure sostenuto dall'appellante. Le prassi, infatti, vorrei anche vedere, hanno valore quando sono legittime, nel senso che servono a regolamentare comportamenti legittimi. Cioè, non è che se vedo la gente passare col rosso passo col rosso anch'io e allora ma fanno tutti così. Grande la linea difensiva dell'Adamo. Comunque, complimenti anche all'avvocato. Andiamo, meteo, pubblicità, poi terzo, secondo e primo posto. State ascoltando un programma offerto da JP Morgan Asset Management. Focus Economia. Di nuovo in diretta per il terzo posto e quarto posto della classifica, poi arriviamo al primo. Oggi non voglio deprimervi troppo, però insomma parliamo dell'istruzione. Ieri abbiamo avuto il responsabile OCSE, dopo il rapporto OCSE, che dice che i nostri laureati sono più bassi della media europea, sono anche preparati in discipline meno interessanti spesso degli altri paesi europei, e quando sono bravi vengono bistrattati. E tutti si riempiono la bocca in sto paese: investire in formazione, investire in formazione, investire in formazione, insomma. Tanto potremmo anche iniziare a investire sui docenti, ma investire in maniera meritocratica. Qui non vado subito all'università, anche se c'è una vicenda allucinante che adesso vi sto per raccontare. Voglio andare al terzo posto. E questa vicenda non è per mettere all'agonia il professore in questione, ma è per far capire come funziona questo sistema, in cui norme giuste a tutela di chi ha veri problemi, mi riferisco alla 104, vengono stuprate, abusate, utilizzate per avere dei comportamenti inaccettabili. Allora, sentite questa. Qui stiamo parlando di un docente che si presenta a scuola un giorno solo. Lui insegna, dovrebbe insegnare all'Istituto Tecnico Salvemini a Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna. Si presenta un giorno solo per assicurarsi il posto fisso. Poi chiede immediatamente la legge 104 per assistere un parente malato vicino a casa. La legge glielo consente. Per tutto l'anno scorso il docente titolare della cattedra non si è visto. E tu dici, vabbè, è un caso di problema molto forte, privato. No, perché quest'anno, a pochi giorni dall'inizio della scuola, sul tavolo del presidente del Salvemini, dallo stesso docente, arriva un'altra richiesta. Voglio un'aspettativa di 3 anni pagata per fare un dottorato di ricerca. Allora, a parte il fatto che tu dici, scusami una cosa, ma o chiedi la 104 perché è un parente gravemente malato, non sei mai andato un giorno a insegnare, ti sei solo presentato per avere il posto e poi sei scomparso. Faccio notare che questo poi ha una conseguenza immediata sull'attività didattica, perché se tu non sai se l'insegnante sarà in ruolo o no, ricorri ai supplenti che devono aspettare fino all'ultimo per sapere se potranno avere una cattedra o uno stipendio. Anche gli studenti, che dovrebbero essere i protagonisti della scuola, si ritrovano in mano a un professore che cambia di anno in anno. E ogni anno si riparte da capo. Ma la cosa incredibile è che lui quest'anno si ripresenta e dice: no, ma quest'anno non ho più voglia della 104, ho bisogno di 3 anni di aspettativa pagata per fare un dottorato di ricerca. Tu dici: ma dove lo fai il dottorato di ricerca? A Bologna? No, perché lì, insomma, o in un'altra università tradizionale, che ne so, a Modena. No, lui lo deve fare all'università telematica di Malta. Allora, lui fa il dottorato via web, chiede alla scuola dove ha assunto di avere lo stipendio per 3 anni e di non insegnare. Anche questo ti consente la legge, perché ti consente di chiedere lo stipendio se il dottorato di ricerca è senza borsa di studio. Cioè, se tu non hai dal dottorato una borsa di studio, puoi chiedere di mantenere lo stipendio del posto in cui stavi lavorando, se pubblico chiaramente. Siccome per fare un dottorato di ricerca in un'università telematica straniera bisogna pagare qualcosa, lui non solo non ha la borsa di studio, paga anche per il dottorato, e quindi lui ha chiesto legittimamente di assentarsi dal Salvemini tutti e 3 gli anni del dottorato con tanto di stipendio. A parte il fatto che io dico la decenza, la dignità sono un'altra categoria, ma come? Tu hai un parente malato e chiedi la 104. L'anno dopo il parente, io spero che stia benissimo, lo dico senza nessuna ironia, ci mancherebbe, perché crediamo che al parente malato. L'anno dopo dice: no, adesso non è più un problema della 104, devo fare un dottorato di 3 anni, mi dovete anche pagare, oltre che trovare il supplente, perché io il dottorato lo faccio a Malta. Ma perché a Malta? Ma dottorato telematico, eh? Perché così stai da casa, non devi neanche fare lo sforzo di andare a Bologna o Modena. E soprattutto puoi chiedere il rimborso. Allora gli sono girate le scatole al preside del Salvemini, Carlo Braga, ha risposto al docente in maniera negativa, facendo una valutazione complessiva della situazione. Ma tanto, ha detto sempre lo stesso Braga, mi aspetto già un ricorso da parte del professore in questione, e a questo punto è abbastanza scontato che la vicenda finirà davanti a un giudice. Io spero che ci sia un giudice a Berlino, perché non è solo per lui, è anche per gli altri, per il rispetto degli studenti. Cioè, quando non c'è vergogna, io spero che questo almeno rappresenti un aggravante. Ma niente a che vedere con quello che è riuscita a combinare l'Università di Firenze, a cui, insomma, è la mia alma mater, io mi sono laureato lì, ma insomma, parliamo del Dipartimento di Scienze Giuridiche. Non voglio tornare sull'inchiesta che ha scoperchiato l'acqua calda, ossia le baronie, i concorsi in cui si venivano spartiti i posti, le intercettazioni. No, ma questo è allucinante. Allora, c'è un professore su cui verte buona parte di questa inchiesta, che si chiama Roberto Cordeiro Guerra, è accusato di corruzione dalla Procura di Firenze per la spartizione delle abilitazioni, l'avete letto su tutti i giornali, e viene sospeso. Allora, pochi giorni infatti fa il GIP Angelo Antonio Pezzuti ha disposto per lui la misura dell'interdizione, e a dover recepire l'interdizione e conseguente sospensione in seno al Dipartimento deve essere, capito, il Dipartimento stesso che si riunisce. E quindi, oltre a Filippo La Roma Jezzi, a cui va tutta la nostra solidarietà, speriamo che non gliela facciano pagare, tenga duro Jezzi, il ricercatore che con le denunce ha dato avvio all'indagine, nonostante i baroni gli avessero detto ma le conviene, ma stia tranquillo, un giro che poi facciamo lei, l'avete letta l'intercettazione. C'è anche il professor Giovanni Flora nel Dipartimento, peccato che lui difenda altri due indagati, e ti chiedi già, ma insomma, uno che deve difendere due indagati ha un senso che si pronunci? Ma non si è. Ma si è. La direttrice Patrizia Giunti e il professor Stefano Rodigo, scusatemi, che è allievo di Guerra e anche socio del suo studio, ma con lui condivide anche l'accusa di corruzione nell'ambito della stessa inchiesta. Questo non ha alcun rilievo penale, ma insomma la parte etica, forse deontologica. Durante la riunione vengono prese anche altre decisioni. Comunque, Cordeiro Guerra è accusato di corruzione proprio perché avrebbe spinto l'abilitazione di Rodigo, il quale a questo punto deve valutare sulla sospensione del Cordeiro Guerra. Ora uno dice, ma è normale che uno che è socio suo, è grazie a lui che tu hai avuto l'abilitazione secondo l'accusa che ha portato all'indagine e l'accusa di corruzione, tu giudichi lui, ma qui insomma. Niente. Il Dipartimento teoricamente non è tenuto a sapere che anche Dorigo è accusato di corruzione, però attenzione, perché lui lo sa che è indagato, perché nel decreto di perquisizione con annesso avviso di garanzia c'era scritto nel decreto della Guardia di Finanza, no? Allora, lui è stato perquisito, sa benissimo, è proprio con l'accusa di corruzione. Uno si immagina che dica, guardate, scusatemi, anch'io sono indagato, non posso partecipare a un voto, al recepimento della sospensione del professore indagato assieme a me per avermi abilitato illegalmente alla professione, no? Niente. Allora, invece no. Lui vota quando la direttrice del Dipartimento sullo slittamento dei corsi tenuti da Cordeiro Guerra chiede ci sono contrari, nessuno. Tutto passa all'unanimità. Lo slittamento è dovuto al fatto che gli unici due docenti disponibili, si chiamano La Roma e Dorigo, hanno un monte ore già troppo pieno. E quindi dove andranno gli studenti che hanno in calendario esami e tesi universitarie? Allora, l'attività sarà proseguita proprio dalla Roma e Dorigo, che quindi è eredita il lavoro di supporto destinato a Guerra. Tra l'altro, insomma, tutto si è svolto con un certo clima di allegria. Tra l'altro, indagato per la stessa inchiesta, Dorigo l'11 ottobre farà parte della commissione, della commissione di una tesi di laurea in scienze dei servizi giuridici. Lo stesso Dorigo, il 18 aprile 2015, intercettato con Cordeiro Guerra, dice grande prova, soprattutto la sua, hai lavorato dietro le quinte, grazie. Allora, insomma, se tutto questo vi sembra normale, andiamo avanti e poi finiamo al primo posto. Se non vi sembra normale, non so, scrivete al Dipartimento di Scienze Giuridiche. Non capisco qual è il limite che vogliono raggiungere. Comunque andiamo sul traffico e poi la chiudiamo col primo posto in classifica. Faircam Transport, il vostro partner per trasporti a carico completo o parziale. Faircam.com vi presenta Focus Economia. Oh, andiamo al primo posto, dove oggi troviamo la Puglia, la regione Puglia, ma non tanto per il record del costo dei telepass dei consiglieri regionali, perché le urgenze dovute alle incrementate attività istituzionali effettuate dai consiglieri regionali hanno portato al capitolo di spesa dei telepass in aumento per almeno 40.000 euro. e come recupereranno questa somma, cercheranno di tagliare altri benefit, giornali e periodici. Del resto, se sei sempre in auto, è difficile che tu possa leggere. Ha recuperato metà dei dirigenti, dei soldi su 48.000 e 20.000, ma faccio notare che il direttorio composto dal presidente del consiglio regionale Mario Loizzo, oltre che dai due vicepresidenti e due consiglieri, da fine luglio si è riunito una sola volta, un pochino forse, il 21 settembre, però ha approvato due punti all'ordine del giorno fondamentali. Due. Una volta si è riunito, due punti. Da fine luglio, Primo punto: l'acquisto di 70 libri per arricchire la biblioteca regionale. E capirei, mai più senza. 50 copie de La civiltà messapica e 20 copie de Il Natale nella tradizione popolare. Io immagino i pugliesi e i baresi correre la ressa, problemi di ordine pubblico, andare alla biblioteca regionale per leggere o per beccare almeno una delle 50 copie della civiltà messapica e almeno una delle 20 copie de Il Natale nella tradizione popolare. Il secondo provvedimento fondamentale approvato nell'unica volta in cui si sono riuniti è l'organismo di presidenza, sto parlando, è il finanziamento di alcune manifestazioni di interesse culturale. E la festa della pizza di Casarano, il saggio musicale di fine anno a Santa Cesarea Terme e poi per esempio la 31esima sagra dell'Oliva, cui hanno dovuto stanziare 900 euro di contributi, mamma che tristezza, all'Arci di San Nicandro di Bari. Ma fosse questo, no, per fortuna chiudiamo con una buona notizia, infatti voglio l'applauso perché qualcuno ricorderà il secondo posto che demmo la scorsa settimana all'edificio della regione Puglia. Dal 2002 i lavori sono iniziati, costerà 60 milioni il progetto del 2002, i lavori iniziano nel 2012, non sono ancora finiti, i costi continuano a lievitare, raccontammo della famosa fontana, l'hanno spostata, mettono un anfiteatro da 250, l'hanno eliminata da 250 posti, i costi pazzi dell'affitto che intanto paga la regione, i ritardi nel trasferimento, ogni anno le locazioni passive costano 1,5 milioni e poi i 15.000 metri quadrati di vetrate che solo a pulirli, abbiamo fatto un calcolo, veniva fuori una cifra immensa, ma che è? Bene, la buona notizia è che la Guardia di Finanza nei giorni scorsi si è presentata negli uffici della Regione Puglia e ha chiesto e acquisito la documentazione relativa ai ritardi nella realizzazione della nuova sede del Consiglio regionale pugliese. Tutto vuole vedere, anche il progetto vinto 15 anni fa dallo studio Valle di Roma. La Cassazione stabilì nel 2013 che la gara per la progettazione della nuova sede del Consiglio regionale fu alterata da turbativa d'asta. Insomma, prima ancora di inaugurarlo, anfiteatro e vetri a posto, già indaga la Guardia di Finanza. Hanno battuto ogni record questa volta la Regione Puglia e il Consiglio regionale pugliese. Un applauso alla Guardia di Finanza. Adesso andiamo a tirarci sul morale invece con il caso virtuoso Riccardo Casalecchia, fondatore di Rock Colors. Buonasera. Buonasera e buonasera a tutti. Stia con noi dopo il GR24. Il segnale orario vi è offerto da Unica e Italiana Assicurazioni, società di Reale Group. State ascoltando un programma offerto da JP Morgan Asset Management, Focus Economia. Diciotto e otto minuti e di nuovo Riccardo Casalecchia, fondatore di Rock Colors. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Quanti anni ha, che cosa fa Rock Colors, quando l'ha fondata e chi l'ha aiutata? Io ho 29 anni e vengo da una famiglia di cavatori e sono la terza generazione. Cavatori? 50... Cavatori, uh-huh. Esatto, cavatori. E sono nato praticamente in mezzo alla pietra e da un'azienda che si occupava, che si occupa tuttora delle costruzioni pesanti, quindi produzione di calcestruzzi, produzione di materiale per costruzione. Con la crisi dell'edilizia abbiamo cercato un percorso alternativo con i nostri materiali, che appunto sono le pietre. E da lì è nato il percorso di Rock Colors, che è un'esclusiva collezione di pietre colorate per l'arredo degli spazi esterni e degli spazi interni. Quindi ecco. Ma questo l'ha fatto perché l'azienda era in difficoltà a un certo punto? L'ho fatto perché comunque sia dal 2007-2008, con il calo delle commesse, noi lavoravamo su grandi commesse, con il calo dei numeri abbiamo dovuto cercare una strada alternativa a quella dell'edilizia pesante, e sapendo fare bene il mestiere dei cavatori, conoscendo profondamente i nostri prodotti, partendo da quello abbiamo creato un prodotto assolutamente innovativo che non esiste da nessun'altra parte. Insomma. Ecco, chi vi ha dato una mano dal punto di vista economico? Quanti siete, se è riuscito a assumere o comunque mettere a contratto altri collaboratori? Purtroppo a livello economico non ho ricevuto un aiuto né dalle istituzioni finanziarie né dalle banche. Ci siamo rimboccati le maniche. Abbiamo cominciato piano piano, eravamo io e un chimico, abbiamo cercato proprio con le mani, nella malta, come si dice, no? Rimboccandoci le maniche, e adesso siamo 10 persone più ridotto, che sono gli installatori che in tutta Italia vanno a installare e realizzare i nostri progetti. Quindi nessun aiuto dalle banche né dalle finanziarie, ma lei ha chiesto aiuto? Noi abbiamo provato a chiedere aiuto, ma ovviamente conoscendoci come una società nel settore dell'edilizia e vedendo in quei momenti l'edilizia crollare, diciamo che ogni istituto ha fatto le proprie scelte, cioè non dandoci credito. Però, senta, come va il fatturato adesso, visto che siete partiti l'anno scorso, e che prospettive avete? Sì, l'anno scorso siamo partiti quasi per gioco, quest'anno ci siamo messi sul serio, nel senso che abbiamo cominciato, abbiamo testato il terreno, abbiamo portato le prime commesse, quest'anno ci aggiriamo intorno ai 400.000 euro, e il prossimo anno ovviamente per il programma triennale è quello di espandersi, di consolidarsi in Italia e di espandersi, diciamo, all'estero. Insomma. Ma avete qualche commessa o contatti con grandi gruppi, con... Abbiamo soggetti. In questo momento stiamo concludendo una commessa a Roma, e abbiamo delle commesse a Bologna per un tratto autostradale, vicino a un tratto autostradale. Siamo in trattativa con alcuni importanti progettisti per delle commesse. Insomma, ci sono dei progetti in ballo che stiamo portando avanti. Senta, il comune di Pesaro, ora scusi se interrompo, il comune di Pesaro abbiamo realizzato un importante allestimento in una rotonda, e abbiamo un progetto molto importante nella stazione ferroviaria, dove andremo a fare una decorazione particolare per il comune. Allora, in bocca al lupo a lei, come sempre, visto che ha 29 anni e si è veramente rimboccato le maniche, che è poi il titolo di questo appuntamento dopo la poco invidiabile classifica. Lei, i 10 addetti, e soprattutto al vostro futuro. Qualcuno mi dice come si chiama la ditta che sono interessato al prodotto. Ok, adesso non è che possiamo fare... Però, lo ripeto volentieri, la ditta si chiama Rock Colors, e lui è Riccardo Casalecchia. Grazie ancora. Grazie mille. Ciao a tutti. Soy el fuego que... Allora, la borsa, prima di arrivare alle tensioni di carattere economico e anche bancario sulla Catalogna, di nuovo in flessione i titoli per via del ragionamento che stiamo facendo da 3 giorni dopo la decisione della Banca Centrale Europea sulle nuove regole per le sofferenze bancarie, e penalizzati soprattutto Milano e Madrid. Per quello che riguarda Milano, che perde alla fine lo 0,77%, Parigi meno 0,36% e Francoforte invariata, Dow Jones meno 0,15%, Londra più 0,20%, Madrid meno 0,30%. Dicevo, Milano vede Bipper Bank perdere 3,50%, UBI 3,40, Banco BPM 2,44, sono i 3 peggiori tra quelli a maggiore capitalizzazione. Poi Italgas perde 2, A2A meno 1,80, Saipem meno 1,70, Ferrari meno 1,40, Mediolanum meno 1,30, come Moncler, Eni ed Enel. Questo perché c'è stato un calo, diciamo, nel prezzo del petrolio. Il mercato si è mosso, diciamo, il calo è abbastanza significativo, quasi il 3% sotto i $50 al barile, e parlo del WTI a 49,4 dollari. Invece sui bancari tiene rispetto alla media Intesa San Paolo, che cede solo lo 0,30%, Unicredit meno 0,70%, Mediobanca è l'unico bancario positivo più 1%, Unipol più 1,50%, Leonardo più 0,60%. Poi ha fatto il botto Cattolica Assicurazioni dopo la notizia che abbiamo dato anche ieri, che Warren Buffett ha comprato il 9% della Cattolica Assicurazioni. Il titolo guadagna il 17% a 8,57 euro. Leonardo invece si avvantaggia dei buoni report, di nuove commesse di elicotteri, anche report di UBS. Per quello che riguarda i peggiori, Centrale del Latte d'Italia meno 7,30, Visibilia meno 7,16, Isagro meno 6,50, Key Group meno 6, Creto Valtellinese meno 5,40. Tra chi è andato bene invece Biancamano più 7,60, e poi Terni Energia più 7,50, FOP più 7,11%. Luca Veronese del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera, buonasera. In collegamento con noi da Madrid, perché tu hai seguito tutta la vicenda assieme anche, noi avevamo Sergio Nava, i vari corrispondenti, tutta la vicenda di Barcellona la settimana scorsa. Però, al di là del fatto che oggi la Corte Costituzionale Spagnola ha sospeso la sessione del Parlamento catalano previsto per lunedì, dove Puigdemont voleva annunciare la dichiarazione di indipendenza, e al di là della vicenda giudiziaria, perché ci sono stati gli interrogatori del capo dei Mossos e dei presidenti delle due grandi organizzazioni della società civile, sono indagati per sedizione. Se ho ben visto, il capo dei Mossos rischia 17, si chiama Trapero, rischia 15 anni, fino a 15 anni di carcere. Qui c'è un problema di quello che stanno facendo i gruppi finanziari bancari, ma non solo, perché il Banco Sabadell ha deciso di spostare la sua sede, la Caixa Bank ci sta pensando, Mediolanum Banco ha detto che sposterà la sede a Valencia e non la parte operativa che resterà lì, ma la sede a Valencia, e da Barcellona a Valencia per ragioni economiche e commerciali. Vuole rimanere nell'ambito di supervisione della Banca Centrale Europea. Gas Natural, che è il colosso dell'energia spagnolo, ha spostato già la sede a Madrid, e Madrid con un decreto, il governo spagnolo ha approvato un decreto che agevola il cambio della sede delle imprese, in particolare riferimento verso la Catalogna. Quanto alto è il rischio economico di cui abbiamo parlato molto poco, perché giustamente prioritario era il rischio politico e anche di ordine pubblico? Allora, è evidente che l'incertezza nella quale oggi vive la Catalogna e nella quale dovrà vivere ancora per lunghi anni, secondo gli analisti, e secondo anche i leader catalani e spagnoli che si sentono qui, e l'incertezza provocherà dei danni all'economia e li sta già provocando probabilmente. Questi spostamenti di cui parlavi sono un simbolo di questa difficoltà, in parte sono anche delle manovre politiche di appoggio al governo di Madrid, e infatti si parla di trasferimento solo della sede della società, della sede legale, non certo delle attività delle imprese, delle fabbriche, delle produzioni, e tantomeno si parla della chiusura degli sportelli bancari o di questo. Non c'è neanche al momento una fuga di capitali, non è preventivata da nessuno in questo momento. Ma c'è una tensione forte, la paura che l'economia catalana, costantemente in contrapposizione con l'economia spagnola, il problema politico, possa pregiudicare il clima economico, gli investimenti, e quindi alla fine dare un danno alle imprese che sono lì sul territorio. Questo è evidente. Quantificarlo non è facile. Il ministro De Guindos dell'economia ha detto che l'economia catalana potrebbe perdere un 30% della sua produzione, del suo PIL in caso di separazione, ma questo va a parte della propaganda. Certo. E anche in parte queste paure, tensioni economiche fanno parte di un piano di Madrid che sta usando questa leva e sta trovando una breccia forse nei leader indipendentisti catalani. Sì, perché come abbiamo detto molte volte, la Catalogna è la regione più ricca della Spagna, il suo PIL fa il 20% quasi del paese, 220 miliardi, ha oltre 600.000 aziende e il PIL pro capite di 30.000 euro, decisamente superiore ai 24.000 euro della media spagnola. Una domanda che è una mia curiosità per concludere, Luca, ma ragioniamo in maniera del tutto ipotetica e teorica, ma ammesso anche che la Catalogna dichiari completamente la sua indipendenza, oltre al rischio economico, perché qui si profila una piccola Brexit, cioè persone che vogliono spostarsi, soggetti giuridici, mi riferisco alle società, che vogliono spostarsi perché vogliono stare sotto l'ombrello europeo. Ma hanno gli indipendentisti sviluppato un piano per capire che rapporti avrebbero con la Banca Centrale Europea, con l'euro, con Bruxelles? Nel senso, la valuta, qualcuno mi scrive, guardi che anche altre realtà non hanno l'euro o lo utilizzano pur senza essere nell'euro. Ho capito, le banche centrali, la banca centrale, le banche vigilate o no? Come dici bene tu, il nodo centrale, il problema dei problemi è la Catalogna dentro o fuori dall'Unione Europea, e anche la mossa delle banche è dovuta al fatto di proteggersi da un'eventuale uscita dall'Eurozona e quindi garantirsi il sostegno anche negli anni a venire della Banca Centrale Europea di Mario Draghi. E la Catalogna, i leader indipendentisti, hanno approvato una legge di rottura, ovviamente bocciata dalla Corte Costituzionale di Madrid, che prevede una graduale responsabilità del governo locale. E in sostanza dice che tutte le funzioni resteranno così come sono, quindi anche la moneta e tutto il resto, e quindi anche l'appartenenza all'Unione Europea, tranne che una dopo l'altra verranno prese in considerazione e in carico da parte di Barcellona. Questa è la gradualità che hanno previsto. Poi, andando nello specifico, loro immaginano una secessione lenta che duri mesi se non anni e che quindi non comporti problemi all'economia. La cosa si è fatta molto più difficile, la rottura molto più violenta e quindi anche lo strappo, le conseguenze dello strappo molto più imprevedibili. Bene, staremo a vedere. Poi a questo punto tutto si sposta martedì, ho capito bene Luca? Sì, esattamente, martedì con un voto nell'Assemblea Nazionale Catalana riunita in plenaria. Quindi la vicenda è tutt'altro che chiusa, come si dice in questo gergo, e ancora il tema predominante, lo dico anche a chi mi scrive, di carattere politico e appunto di ordine interno alla Spagna. Però attenzione, perché a mio avviso, come tu anche ricordavi, il tentativo di fare una cosa morbida sta un po' franando, un po' per le prese di posizione delle banche e anche la pressione, e un po' perché insomma il pericolo c'è tutto. Ci risentiremo la prossima settimana, grazie intanto a Luca Veronese, andiamo sul traffico. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta Focus Economia. Allora, era il novembre del 2002 quando la Cirio Finanziaria non riesce a rimborsare un titolo obbligazionario, un prestito chiesto al mercato da 150 milioni di euro giunto a scadenza, e dichiara lo stato di insolvenza su quel titolo, ma anche su altri 6 titoli obbligazionari. Nel complesso, i 7 titoli emessi fra maggio 2000, i Cirio Bond come diventarono famosi, e maggio 2002 avevano un valore di 1.125 milioni di euro e coinvolsero 35.000 risparmiatori. Che cosa era successo e perché i responsabili del fallimento vengono considerati l'allora patrono della Lazio e proprietario della Cirio, Sergio Cragnotti, l'ex presidente della Banca di Roma Cesare Geronzi, l'ex ministro legato di BPL Giampiero Fiorani. I reati contestati: bancarotta distrattiva, bancarotta preferenziale, truffa. La procura è convinta che il crack della Cirio sia la conseguenza di una serie di operazioni che finirono per prosciugare le casse e fare contrarre debiti sempre maggiori con le banche. A quel punto le banche cosa fanno? Le banche coinvolte spostano questo credito, o meglio, che hanno dato a Cragnotti, lo collocano sul mercato. Guardate che il Sole 24 Ore, il 1 agosto del 2003, pubblica un grafico, fonte Mediobanca, che è lampante, purtroppo non si possono mostrare in radio, perché nel 99 la Cirio aveva 870 milioni di debito con le banche e aveva solo 53 milioni di prestiti obbligazionari. Arriviamo al 2002, la proporzione si inverte, cioè quando poi scoppia il default, il fallimento, Le banche sono rientrate in buona parte, da 870 milioni hanno ancora solo 335 milioni di crediti verso Cragnotti. Nel frattempo però le obbligazioni sono diventate 856 milioni, come dire, in parte anche le banche hanno scaricato sul mercato il rischio e infatti l'accusa è che le banche, pur essendo coscienti che Cirio navigasse da tempo in pessime acque, collocarono queste obbligazioni. Il professor Marco Nado, ne parlammo al tempo, è docente di economia degli intermediari finanziari, nonché editorialista Sole 24 Ore ed ex commissario Consob. Buonasera. Buonasera. Oggi tanti anni fa. Lo so. Un po' tanti anni. Uno ringiovanisce, però eravamo già qua. Eravamo molto più giovani e insomma fa un po' tristezza, insomma, che la vicenda, seppure solo la parte penale, si chiuda 14 anni dopo che... Sì, su Geronzi, passato. Perché la Cassazione ha dato sentenza definitiva su Geronzi, 4 anni, 3 anni coperti da indulto, mentre è tutto da rifare per Cragnotti, perché ha annullata con rinvio l'accusa principale legata alla vicenda Brombrilli. Io con lei vorrei parlare adesso anche lo faremo un'altra volta, della parte degli NPL, lo facciamo in un'altra puntata. Mi può dire solo una cosa, professore, visto che l'abbiamo voluta anche perché allora commentavo molto, fu Cirio la visaglia di quello che sarebbe poi successo con Parmalat e quello che poi sarebbe successo quando il sistema andò sotto pressione, non tutte le banche, ci mancherebbe, e vennero fuori prestiti dati in maniera, diciamo, quantomeno leggera? Fu quella la visaglia? Assolutamente. Se vogliamo proprio essere precisi, c'era stato, mi sembra, prima, adesso per farci di tempo, non voglio sbagliarmi, la questione dei bond argentini. Certo. Però la questione Cirio fu la prima in cui fu chiaro da subito, mi ricordo che lo scrisse anche l'editoriale del Sole 24 Ore, molto poco gradito, che il tema del conflitto di interessi era chiaro e lampante. Poi c'erano anche tutte le questioni complesse delle vicende di Cragnotti, che aveva fatto con la Cirio una serie di operazioni irregolari, eccetera eccetera. Però per quanto riguarda le banche, quello fu veramente il primo caso in cui il tema del conflitto di interessi emerse lampante. Perché tu eri allo stesso tempo creditore di Cragnotti e collocavi le sue obbligazioni esatto. L'accusa, l'ipotesi, insomma, fu così rientri dal credito contratto. Esatto. Poi voglio dire, insomma, c'è l'aspetto penale, un'altra questione, perché queste questioni vanno provate al di là di ogni ragionevole dubbio, certo. In caso di tribunale è un'altra questione. Però diciamo, dal punto di vista economico e sostanziale, il tema era chiaro. E tra l'altro distruggemmo, lo dico nel ringraziarla, poi ripeto, parleremo la prossima settimana invece di quello che ha deciso la Banca Centrale Europea, tanto il tema è molto vivo. Distruggemmo anche uno dei principali gruppi alimentari italiani. La Cirio era leader mondiale nelle conserve di pomodoro, nei pelati e anche nel, vado a memoria perché facevo molte puntate, anche nella produzione di ananas, diciamo, quello in scatola, aveva acquisito la Del Monte. E se pensiamo che poi poco tempo dopo arrivò il crack Parmalat, quello fu un doppio colpo per l'industria agroalimentare italiana, da cui con molta calma e con molta lentezza soprattutto ci siamo forse ripresi, da cui ci siamo forse ripresi. Poi sapete che la Cirio è stata venduta al gruppo Conserve Italia, che ha dentro i marchi anche Valfrutta, Yoga, Derby, Jolly Colombani e altro. Comunque, professor Nado, la rimando alla prossima settimana. Grazie intanto e buon fine settimana anche a lei, così come ringrazio Mauro Del Corno e Barbara Bianchi per l'assistenza in studio e in redazione. Un auguro di buon fine settimana a voi tutti, soprattutto per chi dovrà passarlo lavorando. Ci risentiamo lunedì.